Vorrei dire ancora due cose sul brano di Lucier che abbiamo appena ascoltato. Il pezzo combina una grande efficacia fonica con una tecnologia abbastanza semplice. Infatti basta un magnetofono, un microfono e un impianto di amplificazione di una certa qualità per realizzare questo brano nella propria stanza, senza altri grandi accorgimenti o apparecchiature tecniche. Se vogliamo, questo indirizzo verso una tecnologia a basso costo o più semplice è stato anche uno degli elementi più interessanti che hanno accompagnato questa ricerca del suono ambientale. C'è spesso, come nel brano di Lucier, naturalmente l'uso anche di apparecchiature elettroniche, elettroacustiche, però ridotte quasi all'essenziale, ridotte quasi a un intervento che deve solo evidenziare alcuni aspetti, alcuni elementi che la natura stessa offre, che sono già insiti nella natura fisica del suono. Un altro artista di cui vorrei presentare il lavoro è Max Eastley, inglese anche lui. Max Eastley è di formazione un artista visivo, poi da vari anni si è interessato delle possibilità di costruire apparecchiature, o meglio strumenti, che suonino sfruttando la forza, l'energia di agenti naturali, particolarmente vento e acqua. Max costruisce questi apparecchi, questi strumenti nuovi, in modo che essi possano venire installati o su posti dove ci sono corsi d'acqua, oppure su posti con molto vento, in modo da sfruttare le energie che questi agenti possono offrire. Il suo lavoro, appunto, si caratterizza come una musica quasi da meublement, se vogliamo, solo che in questo caso non viene fatta all'interno ma all'esterno, cioè si inserisce proprio nel ritmo, nell'avvicendarsi degli agenti naturali che lui usa per i suoi strumenti. I primi esempi che sentiremo usano l'acqua, che muove sia delle corde tese che anche certe lastre di metallo e le mette in vibrazione, e anche elementi del vento. Potremmo dire che Max Eastley in un certo senso riprende un matrimonio di epoche passate e di culture remote. Sappiamo infatti che nei cinesi, nei giapponesi, anche nei greci, era una prassi vigente costruire degli strumenti che venissero azionati dal vento o dall'acqua. Ricordiamo tutti il termine arpa eolia, che appunto non era altro che uno strumento azionato dal vento. Inoltre anche altri musicisti recentemente sono interessati a questa problematica. Ricordo tra gli altri il gruppo MUD di Montreal, che si è formato sotto la guida del musicista italiano Mario Bertoncini, e questo gruppo di musical design, come si chiama appunto, si occupa anche della costruzione di strumenti che vengono azionati da agenti naturali. Anche Max Eastley nelle sue apparecchiature, nei suoi strumenti, usa una tecnologia in fondo abbastanza semplice per quanto raffinata. Questo è molto evidente nell'esempio che sentiremo ora, il quale consiste di suoni prodotti dai ailofoni, come li chiama lui, appunto strumenti a azione di vento, e questi strumenti consistono praticamente solo di lunghe fasce di latex, una gomma particolare, la quale vibra e dà, oltre alla vibrazione fondamentale, un ricco spettro di armonici.